24 mattino. 18 minuti dopo le 8, ancora Irene Zerbini al microfono, ma non sono sola. Tra poco parleremo di costituzione giapponese, perché mette al bando le pratiche crudeli, ma non la pena di morte, che non è considerata una pratica crudele. Infatti ieri 3 detenuti sono stati giustiziati, e dunque un altro paese democratico, oltre agli Stati Uniti, di cui si parla più spesso, che mantiene e pratica la pena di morte. Prima di tutte queste osservazioni, però, Deborah Rosciani. I nostri soldi. Soldi e dintorni. Me ne sono appropriata, li ho definiti i nostri soldi. E sono nostri, sì. In soldi e dintorni si discute i nostri soldi. Oggi, tra l'altro, tu, carissima Deborah, innanzitutto buongiorno. Ciao, ti ho salutato Irene, fuori giornata. Onda. Sì, infatti. Metti il dito nella piaga, l'elettricista ad agosto. Mamma mia, e che piaga! E quanto costa questa piaga? Il portafoglio è ben piagato in estate. E allora, sai perché ci è venuto in mente, Irene, di fare questo argomento? Lo abbiamo fatto spesso anche nelle estati passate, in particolar modo a Salvadanaio, perché ancora una volta sui giornali abbiamo letto di casi di vittime, di malcapitati, appunto, di queste problematiche. Sul Corriere di Milano settimana scorsa, una donna rimane bloccata in casa a causa di un guasto alla serratura della sua porta, evidentemente blindata nel suo appartamento, chiama un fabbro per farsi liberare. Quando il tecnico, il professionista, per definirlo così, è arrivato, l'ha fatta affacciare dalla finestra per informarla di persona delle condizioni per la liberazione: 90 euro per l'uscita e 450 euro per lo sblocco della serratura. Gli ha precisato naturalmente che questo servizio l'avrebbe fatto senza consegnarle nessuna ricevuta. La povera signora Giovanna ci è rimasta male, presa alla sprovvista. Irene ha accettato. Estorsione e concorso in sequestro gli darei. No, peraltro la cosa assurda è che per liberarsi nel suo dal suo stesso appartamento sarebbe bastato chiamare i pompieri, che avrebbero fatto questo servizio gratuitamente, poi con calma avrebbe potuto chiamare un altro fabbro che le avrebbe risistemato, evidentemente, o cambiato la serratura. E insomma, questa è la situazione. Se non è il fabbro, è l'idraulico molto o l'elettricista, cinica, senza scrupoli, di turno, infatti. E allora, io stamattina vorrei parlare di questo argomento con una persona che ne sa un po' e che non è molto contento anche di questa reputazione che ovviamente circola relativamente ai professionisti di cui ci dobbiamo avvalere non solo in questo periodo dell'anno, ma durante tutto l'anno. Però vorrei anche ricordare ai nostri ascoltatori che abbiamo deciso di farne di questo anche il tema di domani a Salvadanaio alle 12, per cui scriveteci alla nostra mail salvadanaio@radio24.it o anche all'indirizzo di 24 mattino. Intervenite pure in diretta domani, se vorrete, all'800 24 00 24. Raccontateci il vostro caso, se vi è capitato. Cercheremo di capire cosa si può fare per evitare queste fregature, perché a volte lo sono in piena regola, e soprattutto come reagire e difendersi di fronte a parcelle spropositate ed evitare, appunto, che bussi alla nostra porta un professionista di cui abbiamo assolutamente bisogno, ma che ha ben poco di professionale. Buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni a Danilo Guffanti, che è un artigiano, un orafo, ha un negozio in pieno centro a Milano ed è presidente dell'APA, l'Associazione Artigiani e Piccole Aziende. Guffanti, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Lei fa un lavoro, peraltro, per cui non viene in teoria chiamato in tutta emergenza in pieno agosto. No, per mia fortuna, non sono neanche qui a difendere quella categoria di qualche piccolo furbetto che pensa di sfruttare questo periodo per agevolarsi. Sì, perché magari può anche arrivare un turista a cui si è rotta la collana, che vuole assolutamente indossare per una bella serata che trascorre, appunto, in vacanza qui nel nostro paese. Non è detto che anche voi non siate interessati a questo, lo chiamiamo malcostume, Guffanti? Ma sì, direi un malcostume che però, ribadisco, trova gli spazi, purtroppo, perché c'è tanta magari ignoranza. Credo che se a chi non si fa prendere dal panico di una situazione, di una serratura bloccata piuttosto che di un tubo dell'acqua che esplode all'improvviso, ci sono e ci sono tantissime persone, tantissimi artigiani che sono disponibili a intervenire senza nessun problema e a costi, ribadisco, ben sotto quello che ho sentito prima, sì, i 90 infatti. Euro di uscita e i 450 euro di sblocco. Per lo sblocco della serratura, neanche per la sostituzione, perché poi per quel lavoro lì la signora Giovanna ha dovuto chiamare un ulteriore professionista, un altro fabbro. Senta, allora, intanto voi in ogni caso, consapevoli di questo fenomeno che in estate esplode letteralmente, molto spesso vittime sono sempre le persone sole, sono gli anziani, perché magari chi ha una maggior dialettica, una maggior capacità di trattativa non rimane gabbato, no, in queste situazioni. Però proprio perché voi ne siete ben consapevoli, avete intanto attivato una iniziativa specifica con dei numeri di telefono di riferimento che sono attivi su alcuni paesi della provincia di Milano, però non è detto che poi in altre parti d'Italia ci si possa in qualche maniera gestire e difendere con le stesse modalità. Ci racconta intanto l'iniziativa di Milano? Esatto, è proprio questo. Milano, l'APACOF Artigianato di Milano, ma come diceva lei, dottoressa, tutte le associazioni artigiane in genere sparse su tutta Italia fanno accordi con gli assessorati dei vari comuni. Io le dirò quella di Milano e quella di Monza, che sono le due realtà molto vicine a noi. Noi abbiamo stilato un contratto con l'assessorato dove i nostri artigiani che rimangono aperti nel periodo di agosto, e mi creda sono tanti, hanno la volontà di formulare preventivi gratuiti a tariffa agevolata, perciò anche sotto costo a quello che realmente è il periodo durante l'anno. Questo è anche un po' causa la crisi che stiamo vivendo e perciò tantissimi artigiani in ferie non ci vanno, perché forse è il settore più in crisi in questo periodo. Detto questo, è proprio legata a questa cosa qua, se noi sfruttiamo questo tipo di occasione qua che i vari assessorati stipulano con le associazioni, la cosa da fare, da consigliare a chi incappa in un problema legato, come dicevamo prima, in un'emergenza di queste che abbiamo detto, insomma, l'interruttore della luce che si rompe, esatto, il rubinetto che esplode, la doccia che non va, la caldaia che non funziona, quindi sono tante le cose che possono capitare. La prima cosa che posso consigliare è di mantenere la calma e tenersi magari a portata di mano quelli che sono i numeri delle associazioni artigiane. Solo dato questo riusciamo a poter intervenire, mandare un nostro collega a intervenire sul problema. Ecco, quindi allora, prima di tutto, allora, a parte il fatto che naturalmente la disavventura può anche non capitare, ma qualora volessimo prevenirla, sicuramente prima, in questo periodo, magari stamattina anche stuzzicati da questa trasmissione, andiamo a controllare sul sito, se abbiamo internet o anche sulle pagine gialle, dell'Associazione degli Artigiani di Riferimento del nostro paese, della nostra città, CNA Confartigianato, e magari chiamiamo, facciamoci dare delle indicazioni sui professionisti disponibili in agosto che potrebbero intervenire in caso di emergenza. Esatto, detto questo, esatto, abbiamo 15 nomi. Dottor Guffanti, questo però non significa che che non possiamo farci fare comunque 3 o 4 preventivi diversi prima di farli, esatto, venire a casa nostra. Esatto, ecco. Esatto. E infatti tra i numeri di vari, quando si tengono i vari numeri di vari interventi, questo è un numero che va tenuto. Se mi autorizzate, io darei volentieri i numeri. Ce lo dia senz'altro. È la nostra provincia e Monza provincia. È la nostra trasmissione di servizio, ce lo dia molto volentieri. Allora 02 68 82 151. Benissimo. Questo copre Milano e provincia. Se volete vi do anche quello di Monza e provincia. Andiamo anche con Monza e provincia. 039 36 32 273. E per queste zone siamo coperti. E poi ripeto, per chi invece fosse interessato, per Roma, a tutte le altre città italiane, noi intanto ci rioccupiamo di questo argomento domani a Salvadanaio alle 12, ma contattate le associazioni degli artigiani di riferimento e sicuramente sapranno darvi tutte le informazioni. Una volta che abbiamo chiesto il preventivo, dottor Guffanti, il professionista viene a casa, magari valuta che il danno è un po' più alto, un po' più consistente di quello che aveva previsto e il prezzo che spara è comunque al di fuori del nostro, di quanto immaginavamo, possiamo rifiutarci di pagare e ricordiamoci anche che ci deve rilasciare la ricevuta a nero, possibilmente non si dovrebbe far niente. Non si dovrebbe far niente e non si deve fare niente, anche perché il fatto di avere una ricevuta è sintomo della qualità e dell'esperienza dell'artigiano, perciò questo può portare al fatto di avere la ricevuta con tutti i dati dell'artigiano, avere un intervento così evitiamo di trovarsi di fronte a prezzi esagerati, ma soprattutto a soggetti non qualificati, che è cosa più importante, perché il rischio è anche questo, di trovarsi di fronte a persone che non sono neanche qualificate a fare il tipo di intervento, perché spesso e volentieri in questo periodo qua si nascondono tra le varie pubblicità un po' particolari, dei personaggi che si improvvisano anche a fare gli artigiani, cioè chi si improvvisa a fare l'idraulico quando idraulico non è, o piuttosto chi si improvvisa a fare l'elettricista quando l'elettricista non lo è. Quindi a maggior ragione è importante avere la ricevuta con tutti i dati dell'artigiano. E io direi anche, dottor Gufanti, se ingaggiamo una trattativa sul prezzo, forse questo è anche un segnale che abbiamo di fronte a noi un professionista che non è proprio del tutto qualificato, perché esatto, se ci dice esatto, guarda, io ti posso fare questo prezzo con la ricevuta, se me li dai in nero te lo dimezzo, quindi anche lì immaginiamo. No, evitiamo queste cose qui, perché qualsiasi intervento che fa un artigiano poi è coperto da garanzia. Se non si rilascia questo tipo di ricevuta qui, per esempio sulla stessa serratura, piuttosto che su un tubo che dopo pochi giorni o un giorno dopo si dovrebbe riaprire o scoppio, quello che può succedere, non c'è una ricevuta, perciò l'intervento che viene fatto non possiamo neanche poi avere la garanzia dell'intervento, perciò è fondamentale avere la ricevuta. Benissimo, allora oltre ai soliti servizi utili per la riparazione in casa, volevo ricordare che APA Confartigianato fornisce numeri anche per carrozzieri, perché noi qua sbattiamo, come dire, sempre il consueto mostro in prima pagina, l'idraulico o l'elettricista, ma abbiamo anche carrozzieri, meccanici, parrucchieri, pannettieri, attività artigiane e commercianti che sono aperti in agosto e che magari potrebbero riservarci lo stesso, come dire, sorprese di questo tipo. Dottor Gufanti, è con noi domani alle 12? Domani alle 12 sono con voi. Benissimo, allora è precettato e convocato, torneremo su questo argomento, speriamo arricchendo la nostra trasmissione di tante testimonianze, anzi spererei che non ce ne siano molte, e invece magari qualcuna ce ne sarà e allora la commenteremo insieme. Grazie molto a Danilo Gufanti, buona giornata Irene. Rieccoci, arrivederci. Ma io rimango ottimista, Deborah, penso... Sì, che la nostra casa non si romperà mai niente. Ma no, che se si facesse un appello alla responsabilità, se qualcuno che svolge qualunque tipo di lavoro capisse anche che svolge un servizio, non solo un'attività remunerata, forse migliorerebbero le cose. Ma ti seguiamo sempre con grande interesse. Grazie. A Deborah Rosciani. Buona con giornata domani. Soldi e dintorni. 349-238-6666, questo è il numero a cui inviare sms, perché vogliamo cimentarci ancora una volta in un quesito per il puro piacere di farlo. Qual è l'ultimo paese che ha abolito la pena di morte? Fatecelo sapere. Oggi andremo a Predappio perché il sindaco di Predappio, che sarà con noi, vuole fermare il turismo in camicia nera. Prima però il Giappone, che ha ancora la pena di morte. In primo piano... Alle 8.32 minuti di mercoledì 29 luglio, ancora una volta il decreto anticrisi. Approvato alla Camera, l'opposizione ha criticato lo scudo, oggi ci sarà anche un vertice sul Sud e poi ancora l'esame di dialetto per i professori. Lo chiede la Lega, è contrario al PDL, ma naturalmente è scontro nella maggioranza. Spuntano nuovi nomi nelle indagini sulle stragi di Via D'Amelio e Capaci, in cui morirono Falcone e Borsellino. Tutte notizie che approfondiremo nei GR e grande esultanza per i mondiali di Roma. Oro e record, la Filippi ha vinto i 1500 metri, record nei 200 per la Pellegrini oggi in finale. E le ultimissime sulla bomba, un'autobomba in Spagna, decine di persone sono rimaste ferite per l'esplosione presso una caserma della Guardia Civile della città di Burgos, che si trova nel nord. Gli approfondimenti appunto nei notiziari. Facciamo tappa in Giappone, perché quando si critica la pena di morte e il suo mantenimento nel cosiddetto mondo avanzato industrializzato, in genere il bersaglio è inevitabilmente nel Nord America, gli Stati Uniti. Il Canada infatti ha abolito la pena di morte. Dunque, in realtà, a parte il Texas o altri stati degli Stati Uniti, è il Giappone, uno dei paesi che tutela i diritti civili, che ha delle regolari elezioni con processo democratico e dove il governo continua con la pratica delle impiccagioni. Ieri 3 detenuti sono stati giustiziati. Con noi oggi uno degli osservatori instancabili del pianeta pena capitale, si chiama Claudio Giusti, esperto di diritti umani e pena di morte, soprattutto americana. Ha avuto il privilegio e l'onore di partecipare al primo congresso della sezione italiana di Amnesty International ed è stato uno dei fondatori della World Coalition Against the Death Penalty. Elementi che penso siano sufficienti per farla conoscere, dico bene, Claudio Giusti? Beh, direi di sì, faccio anche altre cose. Grazie, oggi ci limitiamo perché vogliamo concentrarci sulla pena di morte in Giappone. Innanzitutto, chi sono i tre giustiziati ieri? Dunque, l'elenco qui sotto non ce l'ho, però è interessante che dal 2007, mi sembra, non abbiano iniziato il governo, intendo, a fare le esecuzioni sempre così all'improvvisata, senza avvisare nessuno. È una cosa terrificante, però adesso fanno... Quando lei dice non avvisare nessuno, include anche i parenti, i familiari del detenuto? Intendo anche il condannato a morte che viene avvisato un'oretta prima, stamattina ti ammazziamo, e questo può avvenire in qualunque momento, in qualunque giorno, e l'attesa può durare anni quando non decenni. Ed è una delle cose più terrificanti a cui riesco a pensare. E il Giappone, tra l'altro, bandisce dalla Costituzione i trattamenti crudeli. Quindi nel dopoguerra, quando Germania e Italia nelle loro Costituzioni abolirono la pena capitale, il Giappone si limitò a abolire i trattamenti crudeli, come se la condanna a morte, la pena di morte, non lo fosse. Quindi penso sia una questione di mentalità anche. Sì, ma anche un fatto politico. In quegli anni, vabbè, l'Italia era stata abolizionista dal 1877, con l'esclusione dei 20 anni del fascismo. La Germania aveva dei precedenti molto piccoli, però diciamo che i due paesi in un qualche modo si sentivano responsabili di quello che avevano combinato durante la Seconda Guerra Mondiale, di più i tedeschi. I giapponesi no, i giapponesi si sono rifugiati dietro le bombe atomiche e per moltissimi giapponesi la Seconda Guerra Mondiale è cominciata nell'agosto del 1945. Quindi un atteggiamento diverso nei confronti sì, anche di come viene raccontata crimini, di come viene raccontata la storia. Prego. E anche di come viene raccontata la storia ancora oggi sui libri di storia dei giapponesi. Anche non... noi non scherziamo, ma soprattutto noi, i giapponesi, non hanno mai riconosciuto i loro crimini di guerra. Lo sa bene la Corea. Ma il tutto, questo procedimento di pena capitale, è ammantato da una grande riservatezza. E ce l'ha spiegato... Un silenzio quasi assoluto. Ce l'ha spiegato da Tokyo, dove vive, anche Pio D'Emilia, è il corrispondente dal Giappone per Sky TG24. Sentiamolo. Non solo il mondo non associa il Giappone alla pena di morte, ma molti giapponesi ignorano, quantomeno nelle crudeli modalità con cui viene portata a termine, la pena di morte. Pensate che in Giappone il film forse più bello, il capolavoro di Nagisa Oshima, che in Europa è un po' un cult movie per quanto riguarda la pena di morte, cioè l'impiccagione, la pendaison, in Giappone è assolutamente sconosciuto, è ignorato, non si trova nemmeno in affitto nelle videoteche. Ieri appunto sono state giustiziate altre tre persone, con un minimo di trasparenza in più rispetto al passato, perché da un paio d'anni il ministro della giustizia si è finalmente degnato di dare i nomi e i reati per cui queste persone sono state condannate, ma il tutto avviene, continua ad avvenire, con quello che Amnesty International e anche Nessuno Tocchi Caino più volte ha denunciato come una delle forme più crudeli, cioè all'improvviso, senza dare il minimo preavviso ai detenuti, che spesso passano anni e anni nel braccio della morte, senza poter avvertire né i legali né i familiari. Ricordiamo che c'è il grande esempio di Sakai Menda, il condannato a morte che è stato 33 anni nel braccio della morte di Fukuoka, la città a sud del Giappone, e che poi è stato liberato per non aver commesso il fatto, e che ha raccontato, anche venendo in Europa più di una volta, la drammaticità, la tragedia che continuamente vivono queste persone, che un famoso scrittore, Shusaku Endo, ha definito la crudeltà insita nel sistema sociale giapponese, che tende a uccidere l'anima prima ancora del corpo del condannato a morte. Questa è la grande differenza tra il Giappone e gli Stati Uniti. La differenza è fondamentale e fa parte anche del carattere diverso delle due società. Da un lato appunto la pubblicità massima, che è anche ulteriore crudeltà in un certo senso, perché diventa uno show, diventa uno spettacolo con i parenti delle vittime che assistono. Qui invece la massima segretezza, addirittura il corpo viene cremato e solo dopo la cremazione vengono avvertite le famiglie per venire a riprendere l'urna. E torniamo in studio, questo era Pio D'Emilia da Tokyo, abbiamo conversato con lui ieri. E dunque, Claudio, Claudio Giusti, torno a lei. Il grande circo mediatico dell'esecuzione negli Stati Uniti, che serve ai governatori degli stati che la mantengono addirittura per raccogliere e confermare il consenso, e la segretezza del Giappone. Sono due realtà che sembrano su due poli opposti. Pronto? Ci siamo. Sì, scusi. Tenga presente che il circo mediatico si interrompe, per esempio è successo l'altro giorno in Florida, quando la Corte Suprema della Florida ha preso un tizio dal braccio della morte e l'ha messo in libertà perché ha detto all'unanimità che non c'erano prove per mandarcelo. Ma adesso non ricordo come si chiami. Possiamo dire che dunque si va, diciamo così, Unione Europea, Canada, Sudafrica e molti altri stati, si va comunque verso un abolizionismo globale per quel che riguarda la pena di morte? Alla grande, i paesi che non hanno o che non praticano la pena di morte, secondo Amnesty International, sono 139 contro 58 che ce l'hanno e la applicano. Secondo Amnesty International, dal 1976 ogni anno una media di due paesi ha abolito la pena di morte o nei fatti o nel diritto. Ma in sembra Europa, che in Giappone invece goda ancora di grandissimi consensi, secondo un sondaggio, l'ultimo di cui ci è arrivata. Tenga presente che il circo mediatico giapponese c'è quando c'è l'omicidio. A quanto ho letto, i media giapponesi si scatenano, non che poi in Occidente si scherzi, però in Giappone chi è accusato di un crimine violento, di omicidio, eccetera, e viene portato in giudizio, soprattutto se poi si parla della possibilità di dargli la pena di morte, viene letteralmente fatto a pezzi. Quindi c'è il circo mediatico, c'è prima, poi a quel punto, una volta che ti hanno dato una condanna, silenzio più totale, morte civile da ogni punto di vista, non c'è l'obbligatorietà dell'appello, come invece è prevista dalle regole dell'ONU e negli Stati Uniti. E poi tu sparisci e rimani in questo nulla fino a quando non arrivano una mattina, ti portano via e ti impiccano. E nonostante i cambi di governo che si sono succeduti al timone del paese, comunque il Giappone rimane molto convinto del mantenimento anche a livello di opinione pubblica. Lo ribadisce anche il segretario di Amnesty International giapponese, si chiama Makoto Teranaka, sentiamolo, anche se la conversazione ieri era piuttosto difficoltosa, ma sentiamo cosa dice. As for the issue of the death penalty, the Japanese government is quite hard, quite confirmed to retain the death penalty. The current execution, which took place quite recently, is also a big sign that the government is willing to maintain the death penalty system, even after the change of the government. E dunque sulla tematica, sulla materia della pena di morte, il Giappone si comporta in maniera molto strana, ha ribadito il signor Teranaka in questa conversazione, e ecco, lo confermano le tre esecuzioni di ieri. Il Giappone intende mantenere questa pratica. Dunque anche il movimento abolizionista in realtà è marginale in Giappone, Claudio Giusti. Io dico sempre che quando si parla di quattro gatti in Italia, in Giappone sono veramente quattro. In Italia, diciamo, per essere ottimisti, gli abolizionisti attivi saranno, a dire una cifra esagerata, un centinaio. In Giappone probabilmente sono anche di meno. Questo è dovuto a un sacco di problemi, uno dei quali è l'aspetto sociale e l'aspetto del conformismo tipico della società giapponese. Siccome è il governo, il potere che decide, tra l'altro le esecuzioni sono cresciute a dismisura in questi ultimissimi due o tre anni. Quante persone sono state giustiziate? 15 nel 2008 e quest'anno 7, quando negli anni passati ne uccidevano 3, 4, 6. Sono stati anche alcuni anni senza uccidere nessuno, perché il ministro della giustizia era un monaco buddista del gruppo buddista abolizionista, poi ci sono invece buddisti favorevolissimi alla pena di morte. L'altro problema con il movimento abolizionista giapponese è quello di riuscire a prendere contatto col movimento abolizionista giapponese e creare un feeling che non è facile fare con gli americani, figuriamoci con i giapponesi che parlano anche una lingua così diversa da quelle che pratichiamo noi. Chiaro, ma molti si esprimono anche in inglese, però vorrei approfittare della sua presenza, giusto, anche per dare una soddisfazione a chi ci sta scrivendo. Abbiamo chiesto qual è stata l'ultima nazione ad abolire la pena di morte e ci ha scritto un ascoltatore che lo Stato del Vaticano ha abolito la pena di morte solo nel 2001. E un altro dice: ho in mente l'Indonesia per la pena di morte. Ricordo bene, 30 secondi per rispondere a entrambi, giusti? Dunque, il Vaticano ha abolito la pena di morte nel 69 e l'ha tolta dalla Costituzione nel 2001. L'Indonesia utilizza la pena di morte, ma ha anche fatto 4 genocidi in 40 anni. E qual è dunque l'ultimo Stato ad aver abolito? Il Togo giorni fa è passato dallo status di abolizionista di fatto, cioè non aveva esecuzioni da oltre 10 anni e Amnesty International lo aveva messo fra i paesi che andavano verso l'abolizionismo, come è stato il Belgio per una vita, e poi c'è adesso stato un abolizionista totale insieme ufficiale. Prego? È stata ufficializzata. Bisogna fare proprio le leggi. Le leggi, chiaro. È una cosa che può richiedere, pensi all'Italia, quanto tempo ci è voluto per togliere la parola pena di morte dalla Costituzione. Qualche paese abolizionista in pratica a un certo punto ha ripreso a fare esecuzioni. Qualche Stato degli Stati Uniti. E quindi ci sono anche inversioni di rotta. Claudio Giusti. Poche per fortuna, e oggi tra l'altro voglio ricordare verranno pubblicati i dati del rapporto anche di Nessuno Tocchi Caino, un altro osservatorio importantissimo, e vi daremo tutte le notizie, i dati e naturalmente le analisi su quanto succede nel mondo su questo tema nel corso dei notiziari. Grazie per essere stato con noi, Giusti. Grazie a voi. È un esperto di diritti umani e di pena di morte e ha partecipato al primo congresso della sezione italiana di Amnesty International. 48 minuti dopo le 8 e siamo impegnati in calcoli matematici. Dunque, Benito Amilcare Andrea Mussolini nacque il 29 luglio del 1883 e quindi, se abbiamo calcolato bene, 126 anni fa. Questa era la data di nascita, c'è una ricorrenza e appena prima, alla vigilia della ricorrenza, qualcuno ha pensato bene di ricordare ai turisti in camicia nera che a Predappio potrebbero anche per quest'anno o per il futuro non andare. È stato il sindaco di Predappio, Giorgio Frassinetti. A Predappio nacque Benito Mussolini. Giorgio Frassinetti questa mattina con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno. E lei ha ritenuto di lanciare un appello a disertare la sua località, la città, perché ufficialmente Predappio è una città che regge, per un certo tipo di turismo invece è una sorta di meta obbligata. Ma a Predappio cosa si vede? Cioè, arrivando senza cercare qualcosa di specifico, tutta l'iconografia legata al duce molto visibile, messa in evidenza, cosa si vede? Ci racconti un po' questo ingresso in città. Ma venendo da Forlì, la prima cosa che la incontra è un negozio di souvenir, chiamiamoli così, legati al ventennio, che ha 7 vetrine, e poi andando avanti ci sono altri negozi, ma non è tanto questo. Io non è che voglio invitare le persone o la gente a non visitare il nostro paese, tutt'altro. Io ho risposto a una domanda di un giornalista domenica, che vedendo questa manifestazione di alcune centinaia di persone tutte vestite in camicia nera che portavano una croce grande 5 metri, mi chiedevo che senso avesse tutto questo Predappio. Cioè, voglio dire, queste provocazioni senza criticità storica, noi a Predappio non sappiamo davvero che cosa farci, insomma. Lei dice noi, quindi io credo, sindaco, che lei dia voce comunque a un sentimento diffuso anche tra io i residenti. Noi, perché io ho vinto le elezioni 1 mese e mezzo fa e nel mio programma era chiarissima questa cosa, noi del turismo toccate fuga e poi delle provocazioni di nostalgici fatti in questo modo, proprio non, noi non, non e lei l'ha messo proprio nel programma, certo. Nel programma e nella campagna e elettorale con noi, certo. Certo, quanti abitanti ha Predappio? 6.500. E lei quante preferenze ha avuto? Io ho avuto il 47%, eravamo 4 liste. Si è presentato con una lista centro-sinistra. Di centrosinistra. E il Giorgio Frassinetti ha precisato appunto in questa sorta d'appello, che poi è stato ripreso naturalmente dalla stampa: turisti del fascismo, ricordate una cosa, che Predappio non c'entra col fascismo, perché quando Mussolini era a Predappio era ancora socialista. Allora lei ha detto che vadano a Milano, dove ha fondato i fasci, o a Roma, dove è stata fatta la marcia. Un distinguo forse un po' articolato, un pochino difficile da cogliere, soprattutto per chi questi viaggi li organizza. Allora, noi abbiamo disturbato uno di questi giovani che a Predappio è stato in passato, in occasione di altre ricorrenze, fa parte di Azione Giovani Spoleto. Ieri è stato molto difficile far parlare al telefono i partecipanti a questi viaggi, cioè insomma, diciamo la verità, si eclissavano un po'. E poi questo giovane era giunto in spiaggia, quindi mi scuso per la qualità della registrazione, Andrea Panfili di Azione Giovani Spoleto ci ha parlato. Il Sagrario rappresenta un evento storico, i giovani devono andare a visitare, anche perché a scuola purtroppo il fascismo viene molto analizzato in tutti i vari aspetti, quindi andando a Predappio si può vedere la casa del Duce, la casa natale del Duce. Io vorrei però dire una cosa al sindaco di Predappio, no? Il sindaco di Predappio però utilizza tutti i banchetti, tutti i negozi che stanno lì, lo utilizza, perché mi sembra che lì molti ragazzi comprano magliette e gadget vari. Ha sentito Giorgio Frassinetti, sindaco, cosa le dice questo ragazzo? In realtà Predappio ci marcia e l'economia fiorisce su questi gadget. Cosa risponde? Predappio ha 622 partite IVA e siamo 6.500, quindi quasi una partita IVA ogni 10 abitanti. I negozi sono 3 e sono gestiti da privati. In totale gli occupati saranno, a essere ottimisti, non più di 15. Non vedo tutta questa economia. Se fossero poi, anche lì, mettiamo dentro i ristoratori, mettiamo i bar, cioè i visitatori a Predappio vengono lo stesso senza queste cialtronate. Grazie sindaco. Voglio sentire su questo tema anche una storica del fascismo, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna, autrice di diversi libri sul fascismo. L'ultimo è Il fascismo degli italiani. Professoressa Patrizia Dogliani, buongiorno, benvenuta. Grazie. Buongiorno, buongiorno a voi e anche al sindaco Giorgio Frassinetti e ai radiospettatori. Ma secondo lei è utopico questo sindaco? Spera che Predappio non venga più associata in futuro al Duce e a Mussolini? Ma se posso rispondere sia a uno che all'altro di coloro che hanno parlato, intanto non credo che si vada a Predappio per studiare il fascismo rispetto a quello che la scuola fa o non fa. Si può andare a Predappio eventualmente per guardare l'architettura della città nuova. Predappio fu nuova, quella che si visita fu ufficialmente fondata solo nel 1925, quindi abbiamo un'architettura da vedere, oltre naturalmente al problema del cimitero. E dall'altra, sì, io spero che il sindaco e l'amministrazione riesca a fare qualcosa. Se devo dire anche come cittadina, oltre che come storica, forse potrei anche un po' rimproverare il passato all'amministrazione di aver, di debolezza, non di compiacenza, ma di avere in qualche maniera tollerato sin troppo a lungo in passato un certo tipo di visite, di pellegrinaggi in nome di un turismo, anche di una presenza a Predappio. Se posso continuare brevemente, il problema di Predappio è un problema molto più ampio che Predappio non può affrontare da solo. Non so quali siano gli strumenti amministrativi per impedire questo, ce lo può dire il sindaco, però il problema è più ampio, è un fenomeno ormai di culto del neofascismo, delle personalità di neofascismo di un certo tipo. Ed è chiaro che lei dice Predappio è un po' la punta di un iceberg. La punta di iceberg intanto è di una regione, sottoregione come la Romagna, dove si è sviluppato un turismo da cartoline della terra del Duce. Sì, ma lei da storica, ora le chiedo brevemente, ovviamente, da quando la salma di Mussolini è stata trasportata, sì, no, a Predappio, lei da storica è diventato un luogo di culto. Cosa farebbe? Cioè, chiude il sacrario? Come si può rispettare la storia senza scadere nell'apologia di fascismo, che tra l'altro è un reato in Italia? Certo, certo. Questo è un problema che forse bisognerebbe studiare tutti insieme. È un fenomeno, tra l'altro, anomalo per l'Italia. Io le sto parlando in questo momento da Berlino. In Germania non si, a parte che non c'è il corpo di Hitler, ma non si riprodurrebbe un fenomeno di questo genere. Quando c'è stata la statua di cera di Hitler, quest'anno il famoso episodio, il secondo visitatore della fila l'ha decapitata. Lo ricordiamo questo episodio, tra l'altro avvenuto recentemente. Sì, sì. Sì, quindi c'è un problema di apologia, ma è un problema molto più profondo di conti con il passato, di questa nostalgia, di che cosa? In sostanza bisognerebbe chiedersi, prima di proibire, comunque è legittimo che l'amministrazione di Predappio prenda in qualche maniera. Ha preso una posizione, non ha proibito, esatto, non ha proibito, lo precisiamo. Sono elementi di riflessione molto importanti, sarebbe bello poter queste riflessioni svolgerle sempre con la massima serenità, purtroppo non è sempre possibile. Professoressa Patrizia Dogliani, in collegamento con noi da Berlino, grazie naturalmente anche per questo contributo e grazie a Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio. Domani torneremo insieme alle 7:30 per 24 Mattino. Per ora un saluto da Irene Zerbini.